Ben fortificata alla pioggia, ben sommessa al dolore, ben recapitata fra i tanti filtri delle esperienze, sapere che la luce è tua madre e il sole quasi tuo padre, le membra tue, i tuoi figli. Sapere e tacere, parlare e vibrare, e scordare e ritrovare l'ombra di Gesù che seppe torcersi fuori dalla miseria in tempo giusto per la carne di Dio, per lo spirito di Dio, per l'eccellenza delle sue battute, le sue risposte accanitamente perfette, il suo spirito randagio. Sapere che la veridica cima canta in un trasporto che tu non sempre puoi toccare, sapere che ogni pezzo di carne tua è bramata dai cani dietro la tenda degli addii, dietro la lacrima del solitario, dietro l'importanza del nuovo sole che appena, appena porta compagnia se tu sei solo, rovina la casa che ti porta la guardia, rovina l'uccello che non sogna di restare al tuo nido preparato, rovina l'inchiostro che si fa beffa della tua ingratitudine, rovina gli arcangeli che non sanno dove tu hai nascosto, gli angeli che non sanno temere.